Mars. Ebbene, sta lì. Allora, ho fatto la revisione alla macchina. Tutto a posto. Vedo che non controllano quasi nulla, cioè controllano che funzioni l'alternatore che carica la batteria, si controllano gli scarichi della marmitta, si controllano la frenata avanti e dietro e il faro anteriore, mettono quel macchinario per misurare l'intensità del faro anteriore, non controllano né frecce né stop, ho visto, lo sai. Ah, poi ci abbiamo anche per la macchina bollo ritratto, il bollo non lo chiedono proprio, vogliono esclusivamente il libretto di circolazione, manco chiestomela nel bollo, e così c'era per la moto. E un'altra cosa è fatta, poi sono tornato a casa che stavo schiattando dal caldo anche che ho preso fuori, proprio avevo la pelle calda, allora mi sono messo dentro la vasca, mi sono fatto una bella doccia fresca, non fredda, come hai detto tu, miscelando l'acqua calda e fredda, e ha raffreddato la temperatura della pelle, infatti adesso è più fresca, sto molto molto meglio, ma prima guarda stavo schiattando. Sì, me lo posso immaginare, c'è un caldo della Madonna, io sto ripristinando questo computer perché ho macchina, aspetta, forse stanno telefonando a mia moglie. Eia. E ti dicevo, sto ripristinando questo computer che sei in Ciudad. Oh, il computer, ma ci sei anche dato dal caldo, no? Oh, ieri era terrificante qua, era veramente terrificante, però vedi, ero fermo, non sono uscito e quindi sono riuscito più a resisterlo, ma oggi che sono uscito proprio avevo la pelle calda e allora ha fatto bene, dai. Sto meglio, finché dura sto meglio. Anche ieri era deserto, sbaglio, eh? Insomma non sta più entrando nessuno, mi sono 20 entrano, tu già lo sai che se vuoi puoi entrare, non è che non c'è nulla con nessuno. E infatti. Ehi, ma come mai non entri sul 20? Perché loro parlano, c'è Gio Maria, c'è Graziano, poi uno che non conosco, Squalo, Macchisio, entra Luca, insomma, lì la ruota c'è quasi sempre. E infatti è qui che non sta più entrando nessuno. E stavamo pensando tutti al mare, o sono collassati, capito? Anzi, noi stiamo andando poco, Minata lì, stiamo andando veramente poco al mare. Ogni volta diciamo oggi no, domani no, ogni rivisione c'è la scusa, o c'era la scusa della revisione, vabbè. Io sempre, vabbè, sempre preoccupato, non sia che trovino la magagna, invece manco per le paglie, niente passa. Comunque Natalio, ho guardato dappertutto, io telecamere nell'officina della visione non ne ho visto. Ho guardato sui muri, sul soffitto, in basso, nulla. Non ne ho visto io. Eppure ci sono, io le ho viste quando sono andato da Fiori. Altro che noi, anche perché ho non solo della mia, pure quella del comune ho portato per la revisione. Eia. Vabbè, ma se la macchina non ha problemi gravi passa la revisione. Non hanno controllato né l'uscita di retromarcia, né il clacson, nulla hanno provato. Le solite cose, te l'ho detto. Alternatore, carico, frenata e il faro anteriore. A posto. Ah, fra 2 anni adesso ne riparliamo. Adesso per la moto vediamo, dai. Ci mettiamo d'accordo con mamma e vediamo cosa. Se no questa moto è inutile. O la rotamiamo. Ma abbiamo speso più di 1.000 euro perché la dobbiamo buttare. E infatti. Oh signor. Che casotto. Speriamo che me lo ripristini sta cosa, se non mi tocca formattare e puni tutto a nuovo. Ehi, formattare è una rottura di palle, mi. Perché ha molti programmi, a ristallare tutto è una paranoia, perché bisogna ristallare il sistema operativo, il driver di tutte le periferiche e poi i programmi che avevi prima. Io per esempio avevo il computer fisso che è partito, che è vecchio, no? C'è la scheda video, credo, andata. E lì c'erano un bel di programmi piratati da allora. In quegli anni là era tutto gratis, cioè lo scaricavi, non è come adesso, adesso ti devi registrare a forza. Prima era più facile, me. E c'erano una marea di programmi, purtroppo si è rovinata la scheda video e di quel periodo non se ne trovano, almeno credo, residui in magazzino, cosa ne so. Non sono andato perché da quando c'è questo smartphone lo sto usando poco il computer, solo per scaricare musica, film, serie TV, me le guardo poi le cancello perché a tenerle chi se le guarda più. Se capì? Io ho capito. Che lui è un ragazzo ripristinando un bilin che lo sta neghi. E bisogna avere pazienza, Natalie. Bisogna lasciarlo certe volte a ore, non lo so se sia normale. Certe volte comunque hai ragione. Se non hai molti programmi conviene formattare e rimettere tutto ex novo. Capito? C'avevo programmi di vario tipo per fare DVX in quel computer fisso, per trasformare da DVD a DVX o viceversa, un po' di roba, e vabbè dai, le cose cambiano. Comunque nel portatile bene o male qualche programma utile ce l'ho, nel portatile vecchio. Quello nuovo che avevamo preso non era andato bene, alla fine, tempo fa avevo preso un portatile con Windows 7 in fare, 8, non mi ricordo, non era andato bene, l'avevo restituito. E quindi ci ho sempre il portatile vecchio con XP, pensa. Mamma mia. Cioè XP ormai è così vecchio che non trovi nemmeno più virus per XP. Ormai i virus li fanno tutti per i computer nuovi. Infatti non può essere infettato. Vabbè, c'è l'antivirus volendo, però l'antivirus gratuito è sempre limitato. Se no, scusa, lo fanno sia gratis che a pagamento. Se gratis funzionasse perfettamente, quello a pagamento non avrebbe modo di esistere. Invece quello è alla carlona. Poi quello a pagamento è quello buono. E perché a pagamento? Deia. Vabbè che quello a pagamento ha troppe cose in più, tipo fa da firewall, quelle cose lì, tutte cose che a me non interessano. Non mi interessa avere il computer nemmeno troppo blindato. Comunque sai che ho scoperto che l'antivirus che avevo prima era Avira, gratuito. Era avvio, ci metteva un bene, ci metteva 20-30 minuti a finire di avviarsi. Con questo antivirus che ho messo nuovo passano 5 minuti e si avvia. E l'hard disk smette di girare, no? Mentre l'altro stava frullando, non la finiva più. E quindi mi ha snellito il sistema operativo, diciamo, dai, con questo antivirus. Siccome nessun antivirus riusciva a essere installato nel mio computer vecchio, perché o mancavano file o non so, mi dava messaggi d'errore, io ero disperato, ho detto mi sa che non ne posso più mettere. Ho provato Avast, ho provato tanti antivirus e non me li accettava. E ho pensato, ma fottito gioco. Se non che questo 360 antivirus me l'ha accettato e l'ha installato perfettamente. È un antivirus di origine cinese, che però si sta facendo strada. È buono, e quando c'è il virus, ho fatto anche le prove, lo rivela. Figurati. Oppure mi indica le pagine internet pericolose che possono contenere, me le blocca, contenere proprio programmi pericolosi. meglio così, perché si può risparmiare. Purtroppo comprare un computer nuovo portatile no, perché sai cos'è? Se tu vuoi un computer portatile che non sia sorpassato dopo uno o due anni solo, devi pigliare un computer sulle 6-700 euro. Se pigli quelli da 3,99, c'hai poca RAM, c'hai poco processore, capito? Se lo devi aggiornare dopo due o tre anni, non basta la RAM, non basta il processore, invece se prendi quelli belli tecci, capito? C'hai un bel di RAM, c'hai un bel di processore, c'hai un bel di hard disk, insomma, se lo aggiorni al sistema operativo futuro sarà sempre ancora buono, come voglio dire io. E li ho visti certi da 6,99, 7,50, quelli sono veramente belli e sono anche veloci, solo che da indimini mi ricavo 750 euro. Infatti. Mi vendo un rene, oppure potevo, quando Pomponi ho preso quell'apparato, potevo mettermi lì in busciacca senza toccarli e poi aggiungere, solo che è Natali, cioè non puoi solo mettere da parte soldi e non spendere mai, perché piccole cose ti occorrono e alla fine o fai una vita da recluso, non compri nulla, se i soldi vanno spesi, quando mi serve qualcosa la prendo, non sto a mettermi, come diceva qualcuno, i soldi in banca, e beh, poi non posso manco pigliarmi una pizza, capito? O un caffè al bar, non esiste, no? E infatti, a faccio male a domani e mi a pigliare i sigaretti, di la sera ci ha fatto a mai di vecchi. Ehi, adesso te lo ripeto, ogni volta che parli di sigaretta, non fumare, non fumare, tu ci hai avuto anche una cosa al cuore, il fumo fa solo male, sono soldi buttati. Cerca di smettere, guarda che risparmi anche un bel di soldi, eh. Lo so, risparmi salute e soldi. Ma tu non vuoi? Cioè, io non ho voluto mai fumare. Io quando ho fumato non aspiravo con i polmoni, fumavo con la bocca e boh. Perché è deleterio il fumo, per carità. E sostanzialmente non bevo nemmeno, bevo solo giusto quando andiamo fuori, un amaro dopo mangiato, capito? Nemmeno vino, non mi piace il vino, non mi piace, almeno che non sia uno moscato spumante, giusto la notte di Natale, allora lo bevo. Poi vabbè, qualche amaro ogni tanto dopo pranzo, dopo cena, ogni tanto quando non c'è troppo caldo. Proprio, ma sai cosa vuol dire mezzo centimetro di amaro nel bicchiere? Cosa vuoi che ti dica? Io vino non ne sto più bevendo, qualche volta un bicchiere a pranzo ne bevo, ma se no non... Se no ne... Sì, già. Poi vabbè, stavo facendo la prova degli amari, no? Perché a mamma piacciono. Sai, dopo pranzo, dopo cena. Allora, lo Jägermeister è buono, non è troppo dolce. Poi ho provato, l'ho preso l'altra volta, il vecchio amaro del capo, quello sa di arance, no? Sembra mandarinetto, no? Però è molto più dolce, forse anche troppo dolce, capito? Cioè l'amaro deve essere un po' amaro, tipo amaro di erbe alpine, sai, quelli sono più amari. Sicuramente il Braulio, non so se l'hai mai assaggiato, il Braulio sicuramente è più amaro, perché sono tutte erbe di alta montagna, invece lì ci mettono arance, arance calabrese, tutta roba un po'... E vabbè, bisognerebbe provarli tutti. Se vai al bar te lo vieni a pagare un amaro al bar, quanto te lo fanno pagare? 4 euro. E disillusa, non ha già mai bigliato. L'ultima volta l'ho preso in pizzeria e boh, il Montenegro non so neanche quanto me l'hanno fatto pagare. Ecco, per esempio il Montenegro, quello preso il giorno della pizzata, è buono, è molto buono. non mi ricordo quanto dolce, è una via di mezzo, dai, però è buono, veramente buono. Come, così come buono lo Jägermeister. Sai che sono forti come amari, capito? 35 gradi è un bel per lo Jägermeister. So già conviene comprare per casa Natalì, perché sì, sono buoni, ma costano. Conviene comprare amari da discount, capito? Anche d'Auchan ce l'hanno, è del Weiss, amaro del Weiss, è un amaro di erbe con poca gradazione alcolica, pareva 20 gradi, e sempre buoni sono, anche quelli economici, non c'è bisogno di comprare roba di marca. L'amaro lucano, quello non l'ho assaggiato per vedere se era buono. Eia, io mi proponevo di provare tutti, per esempio, quello l'abbiamo provato in pizzeria. Il Montenegro, buono, veramente buono. Il Jägermeister, buono. Questo lo chiamano il capo, un po' dolce. Per alcuni potrebbe essere un po' troppo dolce. Vabbè, a me piace perché piacciono i dolci. Poi ci sarebbe a provare il Lucano, il Montenegro. Non il Montenegro, scusa. Il Braulio, quello che ti ho detto. Amaro di erbe di alta montagna. Lucano non lo so, poi ce ne sono tanti, c'è la Verna, Amaro Verna, c'è Ramazzotti, e solo che non mi posso salassare io a comprare amari costosi. L'Amaro Verna era buono, mi sa che l'avevo assaggiato. Ehi, Natalia, è arrivata la pappa, dai, mi devo assentare. Spero di rientrare dopo, se non mi vai nella bioccomi. E speriamo che non ti vengano, sa che io sono qua alle prese col PC. Eia, ok. A dopo, se no ritieniti salutato, ok? Ok, ciao. Chi è? 4 watt. Natalino? Natalino, tanto si brucia il computer.